all'inizio di via Casini e venivamo sorpassati da un'auto dei carabinieri e pensavamo che questo stesse per fermarsi quando avevamo rallentato davanti a noi. E allora è esploso dal finestrino del posto anteriore destro alcuni colpi in direzione del baule e della vettura. Senta, le chiedo, lei conosceva i carabinieri Mitilini, Moneta e Stefanini? No, negativo. Senta, la ragione per cui voi avete ucciso i carabinieri qual è? Nessuna, per non essere fermati, tutto lì. Quando i carabinieri vi sorpassarono, la sua arma era sul sedile posteriore? No, l'avevo di fianco. Vera? L'avevo di fianco. Può parlare a voce più alta? L'avevo al mio fianco. Io ho sentito che se grazie. Ma glielo ripeto ancora se vuole. No, mi basta. Gli uomini della Uno Bianca sembrano invincibili, le loro azioni fulmine, le vie di fuga collaudate. Ma altri occhi osservano le loro azioni. Sono quelli di due sconosciuti poliziotti di Rimini, Luciano Baglioni, Pietro Costanza. Nel novembre del 94 imboccano la pista giusta, si mettono sulle tracce degli assassini e ripercorrono date, orari delle rapine, degli omicidi. Controllano i ritratti dei banditi descritti dai testimoni. Ma le indagini ufficiali si concentrano sulla malavita locale, quella catanese di importazione. Baglioni e Costanza conservano un sospetto. Gli autori possono essere poliziotti, magari i loro stessi colleghi. Sparano troppo bene, conoscono strade, viottoli, vie di fuga. Riescono sempre a fuggire, a deludere i posti di blocco. Luciano Baglioni. Soprattutto la nostra, diciamo, attenzione veniva rivolta già da allora comunque ad ex appartenenti alle forze dell'ordine, perché secondo noi, se non il nostro ragionamento, era quello che comunque questa banda non apparteneva alla malavita organizzata, neanche alla delinquenza comune, perché fino a quel momento comunque non avevamo mai avuto indicazioni da nessuno, mai informazioni, mai nessuna voce, diciamo, all'esterno dei nostri confidenti. E siamo al punto centrale, ricostruito dalla fiction Uno Bianca. Sono dei pazzi scatenati, ma non hanno mai assaltato banche sorvegliate da quarti giorni, va bene? Quindi, via tutte le bandierine rosse. Sempre hanno rapinato banche in periferia e vicine a svincoli autostradali per avere una via di fuga più semplice. Per cui via, le banche, le centri e quelle lontane dalle autostrade. Spesso preferiscono le banche con le porte per gli antirappati, sono antiblocco, non possono rimanere chiusi dentro. Via. Non ci resta che puntare su una di queste due. Banca Rurale di Savignano e Banca Nazionale di Piazza degli Apostoli. E tu quale hai scelto? Piazza Apostoli. Perché? Ho fatto testa a croce. È uscita testa. Ma questa invece non è fiction, è storia vera. La mattina del 3 novembre del 94, la svolta. Baglioni e Costanza sono davanti ad una banca di San Giustina, in provincia di Rimini. E un attimo, forse meno di un secondo, osservano una Uno Bianca con la targa talmente sporca da risultare illeggibile, quindi sospetta. All'interno c'è un uomo alto. Baglioni e Costanza guardano i suoi occhi. Il volto corrisponde proprio all'unica immagine esistente del killer, quella incisa sul video della telecamera di una delle banche rapinate in precedenza. Ancora non lo sanno, ma davanti a loro c'è Fabio Savi, che sta facendo un sopralluogo di fronte ad un possibile obiettivo. E allora inizia la caccia al killer. Lo seguono, lo perdono, lo ritrovano a Toriana, mentre sale le scale della sua abitazione, al numero 29 di Piazza della Libertà. Poi se lo vedono sbucare davanti in un bar del paese in un primo, casuale, teso incontro. Cinque poliziotti attrezzati, armati, preparati senza scrupoli. Con le palette di servizio i tesserini potevano persino muoversi lungo le strade della Romagna senza destare sospetto alcuno. I loro telefoni vengono messi sotto controllo, cominciano i pedinamenti di Fabio Savi. Si scopre che a muovere i fili. Il colpo è forte, i Savi vengono catturati insieme ai loro complici, confessano, poi ritrattano, ma le prove sono talmente schiaccianti ed evidenti da non lasciare dubbi. I tribunali di Rimini, Pesaro, Bologna li condannano all'ergastolo il 6 marzo 1996. Ma chi erano veramente i componenti della Uno Bianca? Fanatici e razzisti, rapinatori senza scrupoli, schegge impazzite di un disegno più complesso, magari uomini dei servizi. Dopo il terrore scatenato nell'ex Isola Felice dell'Emilia-Romagna tra l'87-94, quattro processi con condanne pesantissime rimangono ancora oggi molti dubbi. La reale motivazione che ha spinto i fratelli Savi e i loro complici è rimasta oscura. Così come le protezioni di cui hanno goduto, fosse troppe per dei semplici rapinatori, c'era una mente dietro quella follia sanguinaria. Rosanna Zecchi, la presidente dell'associazione tra i familiari delle vittime della Uno Bianca. Io sono sincera, io non credo, e poi come me e tanti altri miei associati, non crediamo molto che abbiamo fatto tutto da soli. E con quale scopo? Solo per i soldi? Io, hanno fatto delle rapine che hanno lasciato i soldi per terra, hanno ucciso delle persone, tipo Bonfiglioli, hanno ucciso il cane, hanno ucciso lui, lasciando tutti i soldi per terra. Mirri di Cesena, la moglie le ha detto lasciate stare mio marito, vi do i soldi, hanno ucciso il marito e hanno lasciato lì i soldi. Allora, io non riesco a capire questa ferocia per i soldi e poi li lasciavano lì. E noi ci siamo chiesti il perché, però dobbiamo, questo tribunale ne dobbiamo prendere atto, loro in tribunale hanno detto che lo facevano solamente per soldi, probabilmente, a mio parere, se era solamente per soldi erano pazzi, duri, però col senno di poi capiamo che non erano pazzi, loro ragionavano bene, cioè voglio dire, avevano delle coperture, si coprivano bene perché per 7 anni è andato avanti tutto.